chi è? Voglia. Ciao, grazie. Vabbè, allora. Allora, come va? Beh, è tua. Io oggi. Perché altro qui? Non stare a casa, andare da un amico e quindi tutti i giorni. Adesso oggi sono a casa. Oggi sei, non ho capito. Oggi sono qua a casa, no? Non sono uscito stamattina. Ah, gappa. Oggi accendevo macchina che finisci un buco. Hai tutti spariti, so. Come tutti spariti, anche io no. Sto entrando poco la verità. Sono sempre un po' in HS, in manda materiale. Adesso mi ero qua in stanza, ce l'ho accesa e sono entrato a risponderti, se no non. Noi ci sia molto traffico. Ora più che altro ho usato il GMR e dirà, capito? Ce l'avevo in te, e anche perché la campagna è molto grande, quindi per stare a voi ci abbiamo impattati da presso e parliamo tra di noi. Vabbè, così è strano. Gappa. Niente, stavo controllando il 430, c'era tutto a posto. E andava, stavo guardando un pochino dentro come l'ha fatto rispetto al 140. Va bene. Sì, 140 è bello, anche se 80 rende. 430 non l'ho mai avuto io, ma penso che gli sia bello lo stesso. Sì, già, vanno bene. Bene, mi senti di modulazione? Sì, ho voglia, ti sento benissimo. Noi sto usando il Savelta, ci ho fatto perfezione. E sto usando il Savelta nel 140 adesso. Ah, bella modulazione. Pensavo stessi usando il baracchino. Bella potente, bella. E anche a un'amplificazione, 1,5, se la sollevo si sente tutto il casino che c'è in camera da letto, tutto si intende. No, come lascio stare così. Perché a me io ti sto ascoltando col 430, qui c'è il filtro M, ed è sì, veramente un bel forte. Il segnale sì, 9,30 quasi, 9,25, però la radio è bellissima, alla grande. Allora controllare l'MP5 perché quando tocco la carrozzeria in pratica tende a scendere il divario. C'è qualche filo che non è evidentemente sbagliato, perché questa volta con l'effetto non lo fa, anzi esce bene. Mi sto toccando la carrozzeria del microfono e non lo fa quel difetto, quindi neanche un tono lo spinotto, uno di questi giorni. C'è qualche filo che ho legato diversamente. Sì, ma che filo è? Non so. Giaccio, ma del microfono stai dicendo, della radio? No, del microfono, della radio va bene, posso usare anche il coso, il certificato palmare addirittura, l'M95, il Savelta, l'unica cosa che non mi dice l'altra è il coso, l'MP4 perché c'ha l'attacco inverso, capito? Come il 4000 e il 7009 c'è differenza, quindi adesso devo fare la computazione della portata 4009 per essere giusti tutti e tre. Già va bene, buttiamo per la zuppa. No, stai uscendo veramente molto, ma molto bene, non bene, benissimo, alla grande, ottima radio e ottimo segnale. Buia, non vedi i battiti, non di più, figurati, non li vedo di più, anche perché ho fatto che c'è in quei giorni lì, mamma mia, dovevi passare alla votazione, mi sono stato tra questo, il 2009, eccetera, che scaldavano. Come ricordo la male, oggi c'è aria e quindi l'aria sta girando bene, E io invece appena appena di maestrare, io va bene. Che voglia, si sta bene oggi, anche ieri stava bene, la verità, Quella di giorni, cazzo, 34 gradi, 35, ogni cosa, mamma mia, ogni caldo. Ogni giorno cambia le magliette, il calzone, magliette, calzoni, perché sudavi, e quindi è un casino. Lo so. Dammi 10 minuti ancora che devo mettere a posto qua, ci aggiorniamo dopo, ok? Dopo, ok, a dopo. Antone. Bonsoir, Claude. Oi, aspetta un attimo, non andare via. Parla. Io? Allora. 1, 2, 3. Prova, test. Mi ci sono gli amici tuoi sopra. Porca la miseria, se te va tanto bene. Non mi arrivano. Non ho capito. Stavamo parlando. Ci ho dovuto spostare a 5,50. Cos'hai dovuto fare? Non sto funzionando, aspetta. Aspetta un attimino, che aumento il volume. Porca la miseria. Ripeti qua. Ho detto che a me non mi arrivano oggi, deve essere corporazione, non è favorevole a me. Sempre una stessa, appena cioè neanche detto chi è, subito il mandolino. Il mandolino l'avrei tirato in testa, ma non una, 20 volte. Vabbè, oggi lo ti faccio. Vabbè, cosa stai provando di bello? Aspetta un attimo, mi sono incasinato qua, mi è caduto un coso per terra, non riesco a trovarlo. Capita, vitine, viti piccole. È una vitina piccola, non ci vedo un cazzo. Vecchi siamo, la vista è quella che è. Io sto soldando, figurati, non può far cambiare. Macello. C'è preparazione, sì. Sento anche la Liguria. E niente. Buonasera. Ciao Gianni. Dai Gianni, fra un attimino che mi sistemo da croce, sentiamo dopo. Anche io sto finendo un circuitino, adesso devo testare. C'era Gianni, buonasera. Avanti se ti ascolto, perché c'è un po', c'ho lo scotch quasi al massimo per evitare i disturbi. Riprendi già. Ciao Gianfranco, mi hai sentito un po' tanto. E anche a Claudio, dai. Comunque la gente sta entrando, quindi sto provando a accendere ogni sera, ma sempre qua rema e buco. Di là noi che stiamo a sventiare anche con i rincoglioniti al piano di sopra, che pensano di essere chissà chi, o col mandolino, per carità. Cappa. Vabbè, contentiamoci quando c'è un po' di gente, faccio quattro chiacchiere, poi adesso sono a letto io e non posso nemmeno muovermi, quindi mi farebbe piacere farvi quattro chiacchiere. Cosa ti è successo? Tanto ogni tanto ce n'è una. siamo tutti messi male. Cosa ti è capitato? Certo, mi sono alzato la mattina, non riuscivo a muovere la gamba, ce l'avevo bloccata brusca. E niente, ho fatto lastre e tutto quanto, mi hanno fatto la lastra anche la colonna vertebrale, dolori dell'altro mano, non riesco a dormire la notte, eccetera. Adesso domani devo andare da un ortopedico perché dalle lastre non risulta niente, praticamente la colonna vertebrale, le vertebre sono messe, gli anelli sono tutti messi bene, ci sono gli spazi giusti, c'è scritto che c'è una leggerissima coxartrosi, ma leggera, proprio in forma leggera. Insomma, è una cosa abbastanza seria. Ieri a me era a letto, mi è venuta una scossa alla gamba, mi ha messo fulminato, boh, ma io di schiena non ne ho più, cioè tutto fa incasinata, destra, sinistra, una sopra l'altra, insomma un casino. Infatti la prossima volta la taglio e me la faccio al forno. E arrivo. Come che sto soffrendo io sempre con questo, che cavolo, alla fine mi rovino lo stomaco. Anche se sto prendendo il gasto protettore, ma lui che fa male, si sa che fa male. E niente, sto cercando di evitarlo, e però non ci riesco perché ci sono dei dolori che sono irresistibili, però non riesce a resistere. Beh, non te l'hai trovato un bravo ortopedico, un bravo, perché poi alla fine già lo sai che siamo messi male noi, come sanità è una disperazione. Quello che sento io di chiamate, guarda, c'è forse il segnale della croce, quindi mi raccomando, non vi ammalate, perché è un disastro veramente. Domani c'ho la visita all'ortopedico, devo andare al policlinico, vado a pagamento perché ho chiamato il CUP e ci avevo la visita a settembre, non posso aspettare fino a settembre con questi dolori. No, guarda, oramai dicono, ascolti, venghi quando non respira, può venire, però mi raccomando non deve proprio respirare almeno mezz'ora. Sì, adesso diciamo è un casino, per fare una risonanza magnetica ti mandano a Oristano, a Cagliari, da tutte le parti, cioè non è un casino, non ce ne sono posti. Guarda, stamattina un'altra nuova, lo sai che a Sassari non fanno più la, come si chiama, il carico per i diabetici, no? Anche per chi è incinta, il carico, non mi viene, comunque quale esame lì, il carico per vedere se reggi, se c'è il diabete o meno, quelle cose lì. Non lo fanno più. La curva della carica. Bravo, la curva quella lì. Che non è una curva automobilistica, ma è un esame importante. Non li faccio di più. E immagini. E cosa devo fare? Provi a girare un po', Alghero, magari anche a Cagliari, magari ti prendi l'aereo per fare un esame del genere. Che la devo fare? Tu la devi fare già. Aspetta, perché ho dei problemi di ricezione, perché c'è anche altri apparati che non posso spegnere. E mi ha detto? Ho detto, se la devi fare tu, guarda che la te voce, dove fanno gli esami degli urini, eccetera, eccetera, la fanno. Infatti stanno dicendo a tutti di andare a pagamento. Quindi è sempre quella la tiritera, no? Fai a pagamento. Praticamente ti devi fare due capitali, uno per sopravvivere e uno per la sanità. Con tutto che si paga, no? Che si pagano le tasse per la sanità, però vabbè, noi siamo messi anche bene, se vai per dire in Inghilterra ti devi pagare tutto, devi fare un'assicurazione, quando stai male devi farti pagare l'assicurazione, ma devi farti questa assicurazione, se no non te le fanno gratis, dirò. È un disastro dappertutto, per carità del cielo, guarda. Vabbè, vuol dire, quando uno non può fare le cose, muore e buona tassicchio, e ci manda tutti a voltare. Invece di migliorare stiamo regredendo con la sanità. E nel giro di 10 anni l'hanno distrutta, fatta a pezzi proprio. Secondo me quando l'hanno privatizzata, che sta andando male, perché prima la sanità non andava male. Ma è sempre la stessa storia, ma a me è capitato, anche se c'è soldi, di sentirmi dire, cioè semplicemente detto, ditemi quanto vi volete per una visita urgente. No, non possiamo perché abbiamo 2-3 mesi, il privato è 3 mesi di pazienti già prenotati, non sappiamo neanche noi come fare. Cioè, ma ti rendi conto? È un casino. Io devo fare la visita cardiologica, no? E praticamente questa visita cardiologica, ho telefonato, c'era un cardiologo convenzionato e ho chiesto: voi siete convenzionati? Però sì, siamo convenzionati, ma non ne abbiamo posti con la convenzione. Te se venga a pagamento può venire anche stasera. Sono andato lì, ho pagato quello che dovevo pagare, non c'era un'anima viva, una persona che una persona non c'era, e lui dice che non aveva posti. È una cosa assurda, una vergogna, basta, non c'è da dire. E così purtroppo, che piaccia o no, siamo in questa situazione al cavolo. Quindi la regola è non ammalarsi, cercare di non ammalarsi, non farsi bene niente, e se ti viene qualcosa la devi tenere. Altro non c'è nessuna soluzione. Ma ci sono la gente che è assurdi, che può destreggiarsi, fare le visite a pagamento, allora quindi vanno avanti. Ma se un poveraccio, un pensionato, un lavoro, cosa, può anche morire. Aspetta, è passato l'elicottero qua, ma sordo ogni volta, cioè, la finestra per la circolare l'aria. Passato, sì. Oggi tre volte è atterrato. E con stasera sono 4-5. E vabbè, così è un macello, Quanta gente c'è che è disperata, tu neanche te l'immagini, guarda. Ho visto quel signore su internet che ha chiesto per cortesia se c'è qualcuno che vi può dare una mano, almeno 10 euro, almeno per comprare il pane, perché sono senza pagare l'affitto da dicembre, la luce non so da quando, insomma sono in una condizione, io dice sono uno dei ristoratori più rinomati di Lecce, dopo il coronavirus è andato tutto male e sono rimasto senza una lira. Capito? Stava chiedendo i soldi su internet, adesso dice che gliel'hanno dati, che hanno superato la cifra e che è riuscito a pagare la luce e cosa doveva pagare, gli altri l'affitto. Capito? Però intanto ha dovuto metterci la faccia, tu devi avere la faccia di quest'uomo disperato. No, non è certo il solo, no. No, certo, poi, sai, per il tempo in cui siamo c'è anche gente che ne approfitta, si fa passare per quello per fare solo di là e magari chissà, cioè ne abbiamo visto di tutti i colori anche lì, quindi molta gente anche per fare delle buone azioni c'ha dei problemi, perché ci sono questi che non hanno scrupoli. Anche quelli ci sono, capito, quindi è un disastro su tutti i fronti. Sì, è vero, infatti gli hanno chiesto come mai, se non aveva i soldi per pagare l'affitto, stava usando il cellulare. E lui ha detto che se lui sta usando il cellulare è perché c'è un'anima buona che tutti i mesi gli fa la ricarica per dargli modo di trovare lavoro, di fare qualcosa, perché lui è senza lavoro e senza nulla adesso. Vabbè, ma questa gente deve capire anche che esiste quello che si chiama il rischio d'impresa, perché quando si prende un accidente, un povero Cristo che magari ha uno stipendio da fame e magari c'ha anche figli, sì, e s'antarrangiati, sì, cosa è sicuro, stipendio è sicuro, ma sono talmente bassi che c'è un casino di gente che è in difficoltà. Questi hanno voluto fare l'impresa, molti non l'hanno saputo fare, tanti si sono arricchiti e tanti altri soldi se ne vogliono mangiarli, è quella la storia anche lì. Quindi a chi c'è la cotta, a chi c'è la cruda. Senza dubbio fortunato non è, perché per trovarsi in questa situazione e metterci la faccia non è che sia tanto bello. Io in primis mi vergognerei di fare una cosa del genere, non sarei capace. Sì, ma noi è un'altra cosa, noi ci ludiamo, io non lo farei, ma c'è gente disposta a tutto per fottere il prossimo. È quello che quello è anche un problema. Scusa, ma te lo ricordi quelli di quando c'era stato quel famoso terremoto che si sono strofinati le mani con bambini morti eccetera? Adesso si fa i soldi, quindi di cosa non ci dobbiamo meravigliare ancora? Sì, ma infatti i soldi non sono mai arrivati dove dovevano. È quello che non sa mai con che ha a che fare, no? Ci vuole per fiducia, lo vorrebbe fare. Io, che a me mi sembrava una persona veramente bisognosa in quel momento, perché dalla faccia che aveva già fra si vedeva, era umile, proprio si vedeva come lo chiedeva, per cortesia, se potete farmi questo regalo, di darmi almeno 10 euro per comprare il pane, perché non c'ho 5 lire. Sai, punto di domanda sempre, punto di domanda. Ma anche Vandamarchi ti vendeva la cosa, però poi già lo sappiamo com'era, no? La tiritera si è fatta ricca, lei e la figlia, e ha rovinato tante persone, tra virgolette, no? Chissà che fine ha fatto lì la figlia poi. Vabbè, oh già, ti devo lasciare perché sennò mi si brucia tutto, che stavo testando un coso, un circuitino. Adesso devo terminare e chiudere. Dai, sono qua in ascolto. E andiamo, dai. Ci sentiamo già fra, dai, un QX. Ok, a più tardi magari. Ciao ciao, buonasera. Siete andati via? No, io ci sono. Ciao Franco, non è problema che devo finire di salvare quel circuitino. Aspetta un attimo. Eccomi qua. Vabbè, così c'è qua. Al mare, c'è un ubilico da campagna. Non so, vado al mare già, non c'ho tempo di niente. Ma ti piace? No, non c'ho tempo, non la giocando. Poi col caldo che fa è meglio stare a casa. No, a me già mi piace andarci, però non sono possibilità che adesso. C'ho questa gamba che mi sta facendo male, non riesco a neanche a camminare. Non è risolto ancora. No, ma c'è una bici stavolare dall'autoclinico, al policlinico, a pagamento, perché se no sarebbe stata a 7 euro. Mia moglie lo stesso, a pagamento le ha fatte le visite per gli occhi. Al policlinico lo stesso. E anche io l'ho fatto agli occhi, al policlinico, a pagamento. E ma ogni tanto vado troppo in là, capito? Io sono a dolore, la notte riesco a dormire, è dolorica. Non posso stare sulla settore. Con Lucchi, capo, se posso fare Lucchi è tutto andato. Chi ti ha seguito al policlinico? Canaia? Sì. Vedi, è bravo. Tu potrai scendere, ma comunque c'è bravo, dai. Non c'è problema. Sì, ma se devo parlare, il mio operò lì al policlinico, perché mi hanno detto che c'è un'equipe che viene da fuori, che operano con i robot, che non possono fare un minimo sbaglio, perché usano i robot. Sì, io lo so che usano i robot. In capo. Purtroppo hanno sostituito l'uomo, l'uomo. Sì, nuova tecnologia. Se lo dico. Mia moglie sta spendendo una barca di sud, una barca, non tutti. Anche perché deve cambiare gli occhiali, sta aspettando la relazione proprio della Naira per poter cambiare gli occhiali. E anche lì, una bella mazzata. E vabbè, pazienza. Adesso sta meglio. Sì, così è. Più perché è in attesa appunto di cambiare gli occhiali, perché un occhio con questi occhiali non ci vede. Adesso aspettiamo, dovrebbe avere appuntamento, mi pare, o a fine mese o i primi di settembre. C'è molto bravo Chidi, lo conosci Chidi, quello di Punti, quello è molto bravo e non è nemmeno caro. No, lì va da Donaera e poi da Sini, via Montello mi sembra che sia. Così, via Montello, mi pare di sì. Ma proprio se via Passi, dove c'era Passi in più? E via Cugino. E via Cugino, quella sì. Sì, è quello che mi ha offerto a me, a Lucchi. Molto bravo, non è chiaro, sta andando lì, a volte va anche via, però la sta seguendo con aereo. Io guarda, per Lucchio dovevo operarmi, ho tirettiro, poi ho chiamato un amico del cognato. Ascolta, guarda mio cognato, gli parlo io. Sono andato, mi ha fatto la visita, dopo una settimana mi hanno chiamato all'ospedale per operare. Io solo da giù e traggengo, a volte te agli appuntamenti e poi invece te lo sposta a destra, a sinistra, infatti Anna era soltanto due o tre volte perché non stava bene di salute, perché qui, perché là, si è rotto le palle. Il numero uno sa essere i piccinini, il numero uno è quello, però non lo so come sia, come è prima. Non lo so, il figlio dei piccinini, vabbè, in pensione. Pure lui è piccinino, eh? Sì, piccinini tutti e due sono. Praticamente una volta mi sono trovata la cena con lui. Era a casa di un amico, a cena con la compagna, e ci siamo conosciuti, capito? Siamo conosciuti e me l'ha detto, se hai bisogno vieni, però io non so che prezzi faccia sinceramente, perché Piccini è rinnovato. Io vedo rinnovato, è rinnovato sì, bravo, è un grande, oculista, non lo so, ma vediamo se ne togliamo piedi con questo. Se opera anche, c'è una specie di clinica via Sardegna, mi pare che sia. C'ha tutta la prestazione, sono operatore tutto quanto. Io lo so, sì, io lo so, era un curista di un mio ex collega, è stato operato agli occhi, ci aveva gli occhi in furmi. Ah, come quelli che c'hanno gli occhi al fondo di bottiglia. Sì, per carità, esatto, non ci voleva un cacchio, adesso ci vede benissimo. Se si può fare, anche la miopia adesso si opera e anche se 100%. E cosa vuoi zicchia? Andiamo dove andiamo? Andiamo di baracca. sì. Piccinini è molto bravo, rinnovato, anche il padre era bravo, mamma andava dal padre, gli faceva il laser perché aveva la cataratta e gliela bombardata con l'asso. Sì, sì, sì, sì. Della parte del... Diciamo che dopo che non lo faceva, per un giorno stava un po' allucinata, vedeva delle luci, capito? Poi però si riprendeva, dopo un giorno si riprendeva. Come le faceva la grande, vedeva tutto le luci, capito? Vedeva delle luci. E allora già va bene. Ha proprio un occhio, che faccia due paio di occhiali. Ma lei cos'è mio? Fermi, mi si è spenta la radio. Sto facendo roba, ho toccato il piede col fio. Cosa hai detto già? Ho detto, ah, mio, come... come vista. Adesso è diventata mio, prima era stigmatica. Ah, ma a me piace può operare, mio amico mi ha roba, l'ha fatta. Ha pagato però, ha pagato 1300 euro mi pare, una cosa del genere, o 1300 o 1500, adesso non me ricordo, però ha riacquistato la vista bene. Oh, e quindi adesso già va bene. Però solo a pagamento te lo fanno, non ti rifatti per mutuo. Solo? Solo a pagamento. Ma è tutto a pagamento già, usa. È tutto a pagamento oramai. Paghiamo anche l'aria che respiriamo, se ti fissi. Infatti. Hai detto proprio qua. Un bel casino, Stiamo venendo proprio, stavo parlando con Gianfranco, questo signore, non so se l'hai visto su internet, è entrato a chiedere 10 euro per comprarsi il pane perché non aveva più 5 lire in tasca, niente, aveva affitto da pagare, sacco di debiti, luce, la luce per fare da dicembre che non la paga. Questo qui dice che era uno degli imprenditori maggiori, diciamo, va a un ristorante, albergo, un ristorante, uno dei migliori ristoranti di Lecce. Poi col coronavirus ha fallito e cosa, adesso è rimasto senza una lira. Oh, yeah, oh, yeah. Purtroppo è così, a volte dal niente. Sì, infatti può succedere che uno a casa c'ha i soldi, sembra che sia che mangia un mondo in mano, poi di colpo cade e si fa male. Si fa male, e non se ne beggia più pure con questi problemi che ci sono, guerra, rincali e casini vari. Aspetta che attacco la tappa di chiodo, che attacco un po' cosa. Sono molto che non l'attacco. E io. Eccomi qua. Mi ascolti? E io, che radio è? Questo qui è Superstar. Vabbè. Sono un bel tempo che non le accendo queste radio. Cioè, le accendo, non venisci, lo spengo subito. Questa cosa ti dico. Vabbè. Io sono un po' più... non mi aggiungono proprio. Non so, mi sono dedicato a mettere un po' a posto qua, per quello sono qua 27, se no sto sempre in HF o in V. E adesso ho di nuovo preso la passione per andare in altre bande, dai. Ho montato le antenne già, se non ne avevo. E vabbè, puoi fare un po' da una parte e un po' dall'altra. Sì, vabbè, ma tanto per nessuno. Cosa stai a smontare il QRM? Allora mi sposto e me vado in HF. Ah beh, quello sì, quello senza ombra di dubbio. Per curtare il QRM, vado a farmi due chiacchiere con qualche collega radioamatore, insomma, dall'Alta Italia, così. Scappa, io manco più ascolto sto facendo, no? Vabbè, c'ho anche altre cose da fare. Poi mi stavo sbrigando, oggi ero di diabetologia, domani devo andare all'ortopedico, sto pensando un po' a me perché se noi no che andiamo male. E io infatti già penso alla salute, non alla radio, la radio già mi dà il culo. Mi ha detto comunque il diabetologo che secondo lui sono un reumatismo e basta, perché non c'è nulla. Ha controllato anche i dischetti, tutto quanto, dice no, non c'è nulla. C'è una artrosi, ma proprio in forma leggerissima, ma non è quello che ti sta facendo, non ti fa nulla quel po' che c'è, è proprio una cosa irrisoria. Oh, e allora, va bene. Sì, adesso mi andranno a fare fisioterapia, 40 euro al giorno, ogni volta che vuoi 40 euro. Ma si vede che Lidina, se riesco a mettermi a posto non mi sembra vero, qua che sto soffrendo, la notte non sto dormendo più. Ma dolori c'hai forti. Ma dolori. È presente quando ti fa una frattura, la stessa cosa, che non dormi la notte, che ti fanno male. Dolori così c'ho. Oh, dolori così. E io stesso ho grossi problemi alla schiena di nuovo, infatti mi ha messo a dieta mio medico. Evidentemente ne ho approfittato troppo, ero salito di 5-6 kg e subito mi comprime nella schiena, capito? E anche a me mi ha detto di dimagrire un po' il radiologo, quando mi ha detto che conviene dimagrire un po' perché il peso anche coincide queste cose qua. Ma io sono sceso, ho fatto la visita diabetologica, l'altra volta ero 5 kg in più, sono sceso di 5 kg, batte un gol. Vabbè, tu sei più alto già, capito? Quindi sei strutturato diversamente, però anche tu, il diabete devi tenere una linea. Già lo so. Il problema è farlo, Claudio, col caldo che c'era non te lo mangi un gelato, non te la mangi una frutta, col caldo che c'era. Oh, non bastava l'acqua. Beh, non bastano l'acqua, ho già l'acqua, infatti. È per quello che, capito? È per quello. Poi questo cambio di temperatura, tu immaginati. Alle 7 passiamo da 30 gradi a 26 gradi, quindi sono 4 di colpo che scendono, poi la mattina, dove vedere io qua, c'è un'umidità pazzesca, perché va a prendere la macchina, ma fino al lavoro è completamente bagnata, il tratto tutto bagnato, quindi è un casino così, no, non si può vivere, proprio allucinante. Ehi, ha perché è un caldo umido, capito? E in casa ti fai la doccia, dopo 5 minuti sei tutto quanto sciurro. No, cioè, stai già sudando. A me fa così perlomeno. Sì, a tutti fa così. Però l'asciuttato, l'asciugamano, l'altro lato lavata, è sempre così. Quando c'è questo caldo pazzesco, anche il fisico ha le reazioni, normale. Se vuoi ti hanno in bocca. E abbiamo combinato tutti quelli, adesso la natura si sta ribellando, hanno fatto inquinamento, adesso fanno macchine elettriche, ma oramai è troppo tardi, no? Era da pensarci prima a queste cose. Io dico che era da pensarci prima. Ma io penso che queste macchine elettriche non diano molte soddisfazioni, io sempre, sarà una mia impressione, una mia idea, ma queste macchine elettriche con l'umidità si lasciano a piedi. E anche io penso la stessa cosa. Sì, perché per quanto siano isolate, quella è la ragione, la roba elettrica, se prende umidità chi c'ha la ragione, va in corto, va qua, va là, e alla fine poi se non c'è dove caricare, almeno che facciano una macchina che abbia tipo la dinamo che carica la batteria e che con la batteria vada avanti. Dovrebbero fare tipo questa cosa qua, che carichi direttamente la macchina, la batteria. Non so, ma se ci sono queste colonnine, cosa vuoi fare? E dove ci sono le colonnine? Mica al Tourist Market ci sono, sotto nei garage ci sono. Ho visto, non perché l'hanno fatto, ho visto la poco, non mi ricordo, di a Roma forse. Ma non sono gratuite, si paga. Allora non si paga, chi noi già? No, al Tourist Market sono gratuite, tu vai, attacchi la macchina, ti fai la spesa, quando ritorni te la trovi già bella e carica. Allora già va bene. Poi di nulla no, i clienti, il servizio clienti, te la caricano gratis, capito? Almeno se non ha cambiato adesso, là, perché sin quando c'è lui era così. Ce l'abbiamo anche noi il furgone elettrico. Ah, ci avete il furgone elettrico voi? Sì, hanno preso un fiorino, non un fiorino, quello della Nissan. Un furgone della Nissan tipo fiorino, va. Allora funziona bene. Sì, l'hanno preso a seconda mano, l'hanno versato quello a gasolio e hanno preso quello. A me non mi pare già arrivato l'affare, perché con la gasolio prima di tutto ci potevi mettere 4 pedane dentro, più una smantellata e ce ne stavano 5. E quel fiorino cosa si muore? Ne manca una pedana e si gracca. Eh beh, non la dio va bene. Ci stai scendendo giù ogni tanto a trovare i colleghi? Adesso sono un po' che non scendo, sono sceso ma sono un po', comunque hanno cambiato nome, adesso si chiamano, non me lo ricordo nemmeno il nome, allora, non è più Simpli ma è praticamente nome delle CRAI, quelle grandi, adesso non mi ricordo come si chiama, però ha cambiato nome, ho visto la festa di San Gavino che sono sceso a San Gavino e sono passato da Furi, però non ci sono entrato. Ah, lì fa la spesa mio fratello sempre, io non ci sono mai andato, forse, da quando avete aperto per fare 2 o 3 volte, ma di passaggio proprio, di passaggio, se no non ci sono mai andato. E vabbè, scendo proprio a Poltosa, non è che... E vabbè, spero la prendere in una città. No, io ogni tanto già ci scendo. Ogni tanto vado a farmi una passeggiata. Sono andato anche a vedere Ivana Spagna. Ivana Spagna, poi ho visto voci... non mi ricordo. Voci di stelle, una cosa del genere. E c'era tipo una corrida, dai. Sì, già me l'ha detto mio fratello, no, sono sceso. vedremo le figure che hanno fatto. Prima vanno a Spagna, praticamente il servizio che c'era, mi pare che non si via nuda. Prima vanno a Spagna, gli è mancato il video di colpo, poi non si sentiva più il microfono, si sentiva tratto, un casino. Abbiamo dovuto aspettare, molta gente se n'è andata. E lui ha detto, guarda, dovete scusare, ma i miei tecnici sono bravissimi, non capisco cosa sia successo. E vabbè, poi alla fine ce l'hanno fatta metterla a posto, però tutto il tempo che hanno perso ha dovuto fare meno canzoni, tutto quanto. Lo stesso è successo, lo stesso problema quando hanno fatto quelle, diciamo, quelle voci di stelle, una cosa all'estero sulle stelle, una cosa del genere. Beh, fatto sta che hanno dovuto cambiare il gruppo elettrogeno alla fine, perché non andava più. Cioè si è fasciato il gruppo elettrogeno? E abbiamo dovuto aspettare circa, cosa dico, su di 40 minuti che portasse un altro gruppo, lo cambiasse, come dire, se n'è andata. Era un peccato perché era bello come spettacolo, c'era gente che cantava anche bene. Poi c'era il drone che riprendeva da sopra, c'era il drone che passava sopra con le luci e riprendeva la gente, tutto il pubblico, eccetera. Cosa vera al cristallo? Oh, ui, Claudio mio, sono andato al cristallo perché ho avuto bisogno di andare in bagno, mi sono preso un caffè, sono chiesto di andare in bagno, era pieno di gente fuori, dentro, tutto pieno. Addirittura, in ammazza nei vari. E hanno lavorato tutti in quei giorni lì, sicuramente. Hanno lavorato tutti. Sì, sì, c'erano i negozi anche aperti, capito? Poi da dove c'è l'hotel Elisa, sopra, proprio c'è una terrazza, no, sopra del tetto, c'è una terrazza e questo qua si è messo, ha detto un paio di gazzati, ha detto che doveva tornare a dare da mangiare a proprio a Zuniari, a San Gavino, questo e quell'altro, allora me ne devo andare, così. Ci ha detto cazzate da prendere il pubblico, li illuminavano con il faro e lui diceva queste cose. Chi presentava era Fiori, che non avevo riconosciuto, non c'ha più pancia, tutto diverso. Sì. Operato lo stomaco, hanno ridotto lo stomaco. Ma te lo ricordi prima com'era, che riscendeva fino a giù, sembrava tutto un peso, la macchina di Taranzi con la base. Sì, da dopo Nosara è andato in Messico. Comunque si è dimagrito un casino, non si riconosce, boh, io non lo stavo riconoscendo, se non diceva chi era con lui che presentava, che lo presentava a lui, non l'avrei riconosciuto. Sì, aveva però lo stomaco già, è chiaro, l'hanno operato, quindi poi hanno tolto tutta la massa che aveva in più, insomma, e ha subito un'operazione. Amico di mio cognato, il vigile, quindi me l'ha detto lui. Ebbene, almeno sta molto meglio sicuramente. Ebbene, quella massa lì te la devi portare appresso, non è che se fa le scale, tutto quanto, è una zavorra che vai. Infatti, una zavorra sì. Già che il robusto fa fatica, capito? Immaginati quando ce l'hai così, proprio riparava, te ne avevi un bel. Vabbè, meglio così da che abbia risolto. Gli hanno messo l'anello? Sì, gli hanno ridotto lo stomaco, sì, gli hanno, come si dice, l'operazione che fanno. Cava. Vabbè, va meglio adesso, dai. Cioè era Arzillo, ho visto che era Arzillo. No, già sta bene, non c'è problema. E comunque vanno a Spagna, ha fatto non molte canzoni, perché con questo problema che c'è stato, il tempo è passato, quindi è arrivato a un punto che a certa ora devi smettere, per cui non ha fatto tutte quelle che doveva fare. Io me oramai è Buruella, è passata, mi già cos'è, oramai cos'è, infatti non ce l'ho mai andato, scesa c'era Ilaria con le cugine. Era anche l'altro giorno al televisore. Bisonè è grandezza adesso, però ha fatto le sue belle musiche, ha fatto tutte quelle musiche alla discoteca che mi ballavo, mi ha ricordato i vecchi tempi. Beh sì, grandi, grandi cose, già va bene, eccetera, eccetera. Anche lì la sua cosa l'ha fatta. Ma cosa sto usando? Il Galaxy? No, sto andando col 430, non si sente. Sì, anche il Galaxy esce un bel forte oramai. Mi confondo perché anche quando stavo andando al Ghiere era una bomba, si sentiva la radio un bel forte. No, no, funziona bene con la radio, vai, perfetto. E di nuovo lo smitter è tornato. Sì, c'è il volume basso. Aspetta, mi stanno chiamando. Adesso mi senti bene? Adesso io sono. Ah, ah. Allora ho toccato qualche il micchigini. Capo. Cosa stava dicendo lo smitter, Cla? Ma te ne sei accorto già che sono sparito? Che sono sparito di radio? Sì, non ne sono accorto, ma ho pensato che ti fossi allontanato, non sparito, si è abbassato. Oh, aspetta, aspetta. Aspetta che metto gli occhiali, perché non so quanto ce l'ho. Si è abbassata, ma ho pensato che ti fossi allontanato, capito? Aspetta, facciamo una prova, Ho due rotte. Confermami una cosa. Così si abbassa la modulazione, la radio. Così, si abbassa. No, no. Sì, sì. Che mi si deve... Ma quanto ce lo metti? Ce l'ho a due, a uno e mezzo ce l'ho. Ce l'ho bene, va. Deve aver toccato sicuramente il micchino, perché l'ho aperta per pulirla, dove c'era polvere dentro, invece non c'è niente, sta a posto, deve aver toccato il micchino. No, ma è stato un attimo, Ecla, è stato un attimo solo. Porca paletta, vabbè, importante, vediamo sollevando. Così è troppo alto il Michigan, no? Prova a fare un passaggio. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Troppo alto così è. Sì, quando fischi sì, ma quando parli può anche andare, a me va bene lo stesso. È forte, è guerriera. E la modulazione del giappone, non c'è niente da fare. Vabbè, la mettiamo come era. Era 1,5, l'ho messa a 2, già va bene. Capo. Stavi dicendo poco fa, lo smitter. Stavo dicendo, sì, infatti, ero con Fabrizio stamattina, gli ho detto. Lo smitter si è di nuovo incasinato. Di nuovo tutti Santiago 9. No, ma non mi tocco più, ma non più due balle. Magari c'è qualche cosa che è partita, qualche resistenza, qualche cosa. Era tutto a posto, non c'era niente di anomalo, cosa vuoi dire? Non so. No, ma non mi tocco più già, se no vai toccando lo smitter. È una cosa così, diciamo, orientativa, quindi non me ne frega niente, ma l'importante è che la radio sia a posto, che funzioni tutto perfettamente, c'è una ricezione. Io quando accendo quella radio che mi metto ad ascoltarvi, che è una cosa allucinante, veramente, una ricezione, una trasmissione, poi va bene, perfetta, centrata, il mando laterale, c'è il fine corso che rimane sempre centrato al zero, non lo tocco mai. Mi sposto il mando laterale a ascoltare, a volte nei canali alti, quando c'è propagazione, va, è allucinante quella radio. Lo smitter lo lascio così, ci abbia il culo. Tocca, tocca, apri, fai, tira, molla, pazienza. Con le Santiago 9 vuol dire che stanno arrivando 9 più 20 esecutivi. Ma infatti più o meno i segnali li conosci tutti a memoria. Sì, fate frizionato, ma non fa, stai lì a toccare, a fare, se vogliamo vedere cos'è, cosa non c'è, cosa è partito, cosa non è partito, c'è una resistenza, c'è un diodo, c'è un integrato, c'è ci prende tempo per cosa, ma uno Smith, la radio è buona posizione, perfetto, allora fotti di nero Smith, non è che non si muove, arrivano tutti 9, Roberto mi pare che arrivi un pochino più forte degli altri, ma gli altri siete tutti tra il 7 e il 9, insomma. Ma non avrei chiuso il coso, no? No, no, già lì, tutto aperto. Tutto aperto. Era un posto così di colpo, l'altro giorno ho acceso, ma lì che ho fermato in basso, ho acceso il K e ho visto che praticamente era un problema della radio. Cioè vabbè lo stesso, sabbia e luci. Stare così. E lo squelci controllato là? Sì, sì, lo squelci è chiuso. Sì, è chiuso, è uno. È tutto, sì, più 5, referino a 10, mi viene a 10. Sì, sì, sì, è tutto a posto, no? Così, non so, ripeto, l'ha fatto così all'improvviso. Ah, stavi fa... Vabbè, da. Sì, sarà qualche fesseria, magari se lo vuoi fare, più tardi lo fai fare. Sì, adesso vediamo. Se la tengo la lascio così, e se no la do così e si arrangiano. Sto pensando di fare di nuovo un po' di piazza pulita, perché non c'ho posto di niente, che la linea della IAESA mi prende un sacco di posto, e c'ho anche il radio dentro l'armadio. È un casino. Questa base è più piccola, l'altra l'ho lasciata là, a Carbonazzi, in mansarda, una giovana, poi mi prende troppo spazio, ho messo le cose essenziali, invece sto sempre mettendo, cazzo non c'è più posto. Capo, ma Carbonazzi non è venduto? A casa, ma la mansarda ce l'ho. Ah, la mansarda l'hai tenuta? Beh, certo che sì. Tenuta, c'ho roba, ci sono ancora dei mobili che non avevo dato, una parte l'avevo regalata, una parte l'avevo portata a Portobello, ci sono mobili che non avevo dato, c'è attrezzatura, ci sono le direttive, le 5 elementi che non avevo dato, lo stesso, c'è il master, c'è un sacco di tubi, cavi, cavetti, e se no portare tutto qua, poi mi riempio il cavetto di mondezza, ho lasciato tutto lì. Beh, se ce l'hai, tanto non ti dà spese quella, non devi pagare nulla, né condominio né nulla. No, non fa parte del condominio quella, sono debiti a soffitte quelle, non fanno parte del condominio, non c'è nessuna pulizia, niente, l'assessore arriva sino al 9° piano, poi al 10° praticamente un piano per salire in mansarda te lo devi fare a piedi. Ho capito. Vabbè, già serve sempre perché un ripostiglio serve sempre. Io un ripostiglio di 70 metri quadri, sono le finestre tutte infisse in alluminio che danno, si vede il produttore, se non c'è una veduta che allucina e che non c'è abitabilità, se non mi avevo fatto un altro appartamento di TV. Vabbè, basta farlo. Avevi già l'intenzione di fare l'appartamento, mi ricordo. Lo so, ma abitandoci lì, però spendendo, mettendo soldi e non c'è abitabilità, capito? Non c'è abitabilità, non arriva la linea del citofono. Vabbè, la con la montante sì, per fare il bagno sì, la luce c'è già, però non fa, non c'è abitabilità. Se decidi magari di vestire i quattrini, di affittartela, non la puoi neanche affittare. Stai scherzando, no, succede qualcosa, meglio niente, voglio stare sereno, già c'è un bel culo, già naggio di roba blu, c'è blu. vabbè, se si può magari, ma se non si può cosa fai? Trattini come diciamo, ripostiglio, come valutarsi la roba che non ti serve. Nel momento in cui quando ti serve la più di più. Sei uscito a tratti. Tratti, guarda a vedere adesso uno di queste cose che si sente a trovare il pulsante. No, sei in basso di radio. Io? La battuta. Non mi sono toccato di modulazione. No, già, mi sono consultato con un amico, capito, che fa queste cose, mi ha detto qua, a fare si può fare tutto. posso le lascio stare così, se lo affitto, cioè se metto i quattrini la devi affittare per forza. Ecco, fai tutto, l'affitti, poi succede qualcosa e li mettono in galera, perché non c'è abitabilità. Una cazzata, un incendio, può succedere qualsiasi cosa, capito? Non c'è abitabilità, non c'è agibilità, sono considerate soffitte quelle. Questo va a finire in galera, va a valore, sono fatti 200 euro al mese, ma 400 euro al mese, ma mi dai culo. Prova a vedere adesso come mi ascolti, qua. Bene, adesso bene. Di nuovo sei calato già, controlla il microfono, stavi andando bene. Infatti ho acceso l'altra radio, pensavo che era questa, e invece ho acceso il 140 ed è la stessa cosa. Sarà la batteria. Sarà la batteria della cambio. Devi cambiare, perché parti bene e poi cala la modulazione. Cosa? E quello che ho preso che hanno preso anche a Marco, però cali di modulazione. Cali di modulation. Prova a attaccare il Cobra, vediamo. Non ti ho capito, non sei sparito. Prova, non si sa mai che la radio mia, ma non credo. Aspetta. No, è lui, è lui. È lui, Marco Condor. Vabbè, com'è? Com'è? E tu? Un'estate di cacca. Il mare l'ho visto col binocolo. Buonasera a tutti, dai, continuate. Sì, Gianni, a parte che inizia anche un po' saturetto, appena inizia a parlare si abbassa in meno di mezzo secondo la modulazione, quasi a zero, magari la batteria. Ciao Marco, lì, buonasera, ben ascoltato. A me mi senti bene, sì? Eccellente. Allora, va bene, dai. Il mare tu l'hai visto con binocolo, io l'ho visto col cannocchiale invece, perché il binocolo non è un... C'è voi sempre un par di noghi, se mi vedi sembra un negro, però un negro da giardino, sempre in vendita, sempre in vendita, bello bronzato, ma mare non l'ho visto neanche quest'anno. Comunque il sole fa bene la pelle, almeno tu l'hai preso, capito? Ma negro tutto, c'è cioè anche la chichia, si è allungata. No, quella è rimasta stabile, non ha preso il sole. Se tu immaginati, allora, nella pianta del piede, nei piedi, ho la V dell'infradito. Tutti i piedi sono neri e poi c'è la V dell'infradito bianco. Quella è la V di Vittoria. Cazzo, se vanno a male, dico, ma e ci abbattono a ottenere i buchi. Via. Vabbè, io rimango all'ascolto. Vediamo se Gianni è risolto o ha cambiato radio. Claro. Adesso ho tolto la batteria dall'altro microfono che c'ho. Vediamo un po' come va. Adesso già sei dura la batteria, Gianni. Compratela un paio e tieni.